Negli scorsi mesi siamo stati bombardati dalla discussione riguardo l'utilizzo dei dati di GPS per le app di tracciamento del Covid. Si è parlato dei rischi, dei pericoli e di cosa nascondono quei dati. Visto da fuori, per i non esperti, poteva sembrare un accanimento inutile. E cosa saranno mai i dati di posizione? Sapere che il giorno X ero all'incrocio mentre stavo attraversando la strada cambia poi qualcosa? Nelle scorse settimane, nel paese in cui qualunque tipo di dato viene venduto al miglior offerente, ovvero negli Stati Uniti, è esploso un caso interessante che dimostra quanto i dati del GPS facciano volo a chiunque. Un'inchiesta di BuzzFeed News ha puntato i riflettori sull'azienda MobileWalla, che all'improvviso ha pubblicato un report che analizza la composizione demografica dei manifestanti che hanno partecipato alle proteste per la morte di George Floyd. I manifestanti chiedevano anche che venisse abolito il sistema di polizia americano, quindi c'erano proteste che hanno incendiato gli Stati Uniti a fine maggio, inizio giugno, ma che continuano ad essere attive tuttora. MobileWalla è in grado di predire l'etnia, l'età, il genere e il luogo in cui vivono le persone, semplicemente partendo dai dati di localizzazione che vengono raccolti dagli smartphone. Nel report ci sono questi bellissimi grafici a torta in cui si indica quanti dei manifestanti fossero uomini, quante donne, l'età, se fossero afroamericani, caucasici, ispanici e così via. Nel report si legge che la maggior parte dei manifestanti erano uomini afroamericani. Quello che preoccupa ancora di più, però, è che secondo quanto dichiarato dal presidente dell'azienda, quel report non è stato prodotto per la polizia o su richiesta del governo. Semplicemente i propri dipendenti avevano questa curiosità atroce e hanno deciso di farlo. Quindi, ripeto, avevano i dati a disposizione e l'hanno fatto. MobileWalla non raccoglie direttamente i dati, ma li acquista da terze parti, fra cui ci sono pubblicitari, data brokers, ovvero quelle aziende che comprano e rivendono dati come fossero noccioline, e anche fornitori di servizi internet. A quel punto, una volta acquistati questi dati, con una spruzzata di intelligenza artificiale, MobileWalla trasforma quei dati di posizione, l'ID dei dispositivi, la cronologia browser, in descrizioni demografiche delle persone. E rivendono questi dati aggregati sia a compagnie pubblicitarie, ma, come in un caso rivelato da Vice, anche a partiti politici. Capiamoci, non sappiamo quanto siano accurati i report prodotti. Ma nell'inchiesta di Vice emerge che nelle elezioni americane del 2016 MobileWalla ha usato i dati di posizione degli elettori cristiani evangelici per spingerli ad andare a votare. E è il presidente di MobileWalla stesso a dichiararlo in una puntata di un podcast. Fondamentalmente il sistema funziona così. Prima l'azienda crea un segmento di popolazione per individuare i cristiani evangelici. Se il tuo cellulare, o meglio la posizione del tuo cellulare, è presente regolarmente dove si trova una chiesa, con molte probabilità riesco a dedurre il tuo credo religioso. A quel punto, se il tuo stesso cellulare vedo che non si è recato ai seggi durante le elezioni, posso inviarti a loro un messaggio per suggerirti e ricordarti di andare a farlo. Ovviamente è un casino, questo tipo di mercato di dati negli Stati Uniti è completamente fuori controllo e non è regolato. I data broker acquistano dati di posizione e li rivendono senza controllo. In Italia la situazione non è del tutto chiara. Ci sono alcuni servizi simili, per esempio offerti da Vodafone, ma sono più rivolti alla definizione del flusso di persone che passano in un determinato luogo. Per esempio era stato usato nel centro di Bologna alcuni anni fa, ma più recentemente anche in Lombardia durante il lockdown è stato utilizzato questo tipo di dato per avere un'idea di quante persone si stanno spostando. Ovviamente gli operatori telefonici, ma non solamente loro, siedono su questa miniera inestimabile di dati. Permettere però di individuare e potenzialmente discriminare sulla base del credo religioso, della sessualità o delle scelte politiche rischia di mettere in pericolo l'esercizio dei nostri diritti. Pensiamo infatti ad esempio a quello che è accaduto ai manifestanti americani. La prossima volta che incontri qualcuno che ti dice «Ma tanto il GPS non rivela nulla», ripensaci e fagli sentire questa puntata.